dici di riuscirci, ma non ce la fai. Parli di gran stile, ma tu non ce l'hai. Fitto artista vendi, ma non brilli mai. Non brilli mai. Con molti mesi alle spalle, adesso WhatsApp. Contando mille ragioni, qualcosa non va. Mo ti analizzo il tuo sogno, ma dove sta? È il profilo che ne estraggo, non è quello d'artista. Se ogni tanto guardi dove stai andando, magari ne sei proprio sicuro, è proprio ciò che cercavi. Adesso sei un VIP, ma di certo non fai arte. Ma tutte quelle feste ti diverti o resti da una parte? Ma se non era l'obiettivo, ora sei fuori stagione. Meglio non premere il grilletto senza buona ragione. Fallo coglione, solo quando sei sicuro di arrivare al cuore delle persone. Perché di colpi a salve già ce ne sono troppi. Finto artista ridi oggi che domani scoppi. Una carriera duratura non ci sono sbocchi. Chiedilo ai tuoi capi con le penne sugli occhi. Hands on check, so cool. Check, dici di riuscirci, ma non ce la fai. Parli di gran stile, ma tu non ce l'hai. Il tuo artista vendi, ma non brilli mai. Non brilli mai. Ma mi riprendo, non mi arrendo e mi spendo per superare al meglio questo brutto momento. Sono responsabile di ogni soldo che spendo. La cultura ci appartiene, per questo me la prendo. Trovo una certa emozione, sì. Mostrate in televisione, senza un credo preciso, scelti che l'innovazione. Troppa gente calca scene senza preparazione, credendosi star senza provare emozione. È il paese degli errori, delle occasioni perse. È che mancano gli attori, abbiamo troppe comparse. Poca l'offerta sotto i nostri riflettori, è poco ormai la scelta per i consumatori. Se poi i tuoi capi sapessero quello che serve, perché allora schierare tutte quelle riserve. Oh. Dici di riuscirci, ma non ce la fai. Parli di gran stile, ma tu non ce l'hai. Il tuo artista vendi, ma non brilli mai. Non brilli mai. Dici di riuscirci, ma non ce la fai. Parli di gran stile, ma tu non ce l'hai. Il tuo artista vendi, ma non brilli mai.